se io giro per antenna 1, antenna 2, antenna A, antenna B, quella lì è fortissima. Devi, devi andare a eliminazione, devi andare a esclusione, controllati un po' di roba, gli spezzoni, queste cose qua, ma te le hai controllati l'altro giorno. Che ci sia qualche cosa di corrente, diciamo, di alimentazione che ti stia facendo salire stazionaria. Non lo so. Invece adesso vedi, me l'ha fatto solo quando ho piazzato tutto, e poi ho ritolto tutti i cavi, li ho ricontrollati, li ho tutti lubrificati, tu guarda, il villaggio Biassardi, un gioiello. Magari fra qualcosa che ti sta dando problemi, diciamo nella catena, tra radio e... ma se ne... tu stai facendo radio, rosmetro e antenna, così è. Allora, su questo sì, su questo, sugli altri sono diretto, sull'altra, su Galax, sono diretto, mentre sul Kevin c'ho il Daiwa attaccato e basta, sono Daiwa. Ascolta Fra, ma hai provato una cosa? In base alla potenza che gli dai, se ti dà stazionare, per esempio se esci con 3 watt devi vedere se ti dà stazionare, o se esci con 40 se aumentano. Guarda, adesso sta scaldando la radio da quando abbiamo iniziato, e sono già quasi a 70, sono quasi a 70 watt, senza quasi, dai, sono 70 watt e non c'ho un filo di stazionario. E allora tu hai qualche problema? Tu hai qualche problema nel coso? In qualche spezzone? Tu hai qualche problema nello spezzone? Ma l'OBL della cratta dell'antenna buono è quello che ti va dentro casa? Ho fatto, ma certo che è buono quello lì, sto usando il 213, quello che entra da fuori dall'antenna, quello è il 213, è buonissimo, sì, l'ho misurato ed è perfetto. Gli altri li ho fatti nuovi col cavo che ho comprato a Porto Torres da poco. Sì. No, non vorrei che magari ti stia ballando la calza, si abbia gioco la calza nel PL, visto che c'è da vedere tutto fra. La calza io prendo e la metto sempre a forza, la faccio a misura perfetta, poi li metto a termorestringente, perché a me a volte me l'ha data il problema, a volte me l'ha dato il problema. Io per esempio ho dovuto rifare tutti e due, diciamo, le estremità delle 213 con IPL, perché mi stava dando problemi proprio la calza. Gli ho comprato i PL nuovi, gli ho rifatto le saldature, gli ho fatto tutto quanto nuovo e ho risolto. Ma anch'io col tester andava, col tester andava, però magari non aveva massa a sufficienza. Mi segui? Sì, ho capito quello che stai dicendo. Ho capito, però una cosa strana, perché io adesso mi ho fatto tutti quelli che ci avevo vecchi, li ho tutti smartellati e buttati, e me li ho fatti nuovi con quel cavo che ho comprato a Porto Torres, e quello è buono, il cavo. E certo, quello sì, quello è buono, quello è quel tipo, il tipo buono. Tu l'antenna non l'hai ancora accesa per controllare il PL dell'antenna, perché può darsi che sia anche da lì, Mifra. Può darsi, tu l'antenna non l'hai accesa ancora? No, non l'ho accesa, sto aspettando che si stabilisca, vai, a chi doveva fare la nida da voi sta gatta leva la fura, è un casino. Ma fra, tu prima di stare ad assillarti con dentro con il radio, devi scendere l'antenna, devi fare la manutenzione ordinaria all'antenna, controllare il PL, perché magari anche il PL che c'è su, anche se è bello sigillato, bello, purtroppo è usura, purtroppo c'è l'usura. Tu dici non c'ho grandi potenze, non c'ho nulla, però fra, l'usura c'è, abitiamo davanti a mare, ed è quello. Secondo me tu devi prendere e controllare l'antenna prima, in primis devi prendere e tirare giù l'antenna, risigillarla, rifarla come la fai tu, come Dio comanda, e andare e poi provare. Ma secondo me tu risolvi così, secondo me risolvi così. Sì, ma che io ho quella, anche io, ma non è da adesso che questo l'ho detto, che sicuramente è dall'antenna di fuori, c'è il PL, deve essere come tutto ossidato, chissà come tieni, via. Già ti si ossida la roba così, anche all'interno, figurati all'esterno, quando prende acqua e tutto. E poi me ne sono accorto quando è capitato che stava piovendo a diluvio, quel periodo che non potevo neanche modulare perché c'erano le stazionarie alte, quasi 6-7. Allora è l'antenna, dai, non stare di lì a prendere, a mattanarti la testa con la radio, perché l'impianto di casa non ha niente. Tu hai il problema in antenna, al 99,9%. Devi armarti di santa pazienza, di coso, di passione, scenderla, ti metti di mattina, di prima mattina, te la scendi, ti fai tutto il lavoro e magari la sera te la stai piazzando. Purtroppo è così. Io l'ho fatta la mia, cosa l'ho fatta? Un mese fa. Purtroppo vuol fatta, chi è da voi nascono i problemi. Poi nascono i problemi, stai gira chi ti gira dentro casa facendo tutti i tuoi di nevi, e poi invece è un PL che ti sta rompendo le scatole. Bravo, esatto. Ah, c'hai ragione, cioè. E uno di questi giorni adesso mi metto e la faccio. Adesso mi attacco al palanco, mi attacco in modo che, perché poi a risalirla è pesante, allora attacco il palanco e la tiro così, manuale sempre. Sì. Falla, perché intanto deve fare, ti fa uscire il capo e bacia, ti fa uscire in testa e basta. Poi ti vengono i nervi di porca miseria, magari vai a spendere soldi a comprare cava, a comprare quello, a comprare quell'altro, ed è una stupidaggine di una saldatura o una massa o un po' di ossido che devi fare la manutenzione. E va bene. E noi dobbiamo ritenerci fortunati che quando vogliamo la possiamo abbassare. Ci sono quelli che sul tetto sono saliti una volta 20 anni fa e non può ne assare a chi magari abitano in condominio, hanno fatto il tetto nuovo, è riuscito a farsi lasciare l'antenna, però dici di un'altra capisci non farsi più. Tocca comprare per sé sul tetto, se deve noleggiare la scala aerea, ti goccia 150 euro, però è una passione che, diciamo, un'attività che non dico ogni anno, però ogni 3 anni le 150-200 euro non le puoi investire per pagarsi la scala aerea, salire sul tetto e alquanto dare una revisionatina all'antenna, un paio d'ore, e rimetterla su. Sì, sì, quello sì. Però non capisco una cosa io, questo cavolo di condominio. Cioè, se io sono proprietario di appartamento, proprietario, che è la mia la casa, perché non devo avere l'accesso al tetto? No, questo non ho capito. No, tu l'accesso al tetto ce l'hai, Fra. Tu l'accesso al tetto ce l'hai, però il bel vedere del palazzo è di tutti i proprietari. Tu te le immagini un'antenna come la mia, un impianto antenna come la mia su un terrazzo condominiale, che uno prende e si vede il traliccio alto 8 metri, si vede di poli, si vede la Grazioli, si vede quel di Polo da 11 metri, rigido, grosso, antiestetico, e se le vede sul tetto dici, alla fine tu hai la passione, lo accetteresti. Ci sono quelli che magari non li va, poi ci sono quelli che lo fanno perché vogliono dare fastidio, ci sono quelli che non gliene frega niente, dai. Infatti, guarda, io secondo me quando si abita in condominio così e si vuole fare radio, le antenne filari sono le uniche, così ti puoi fare le quattro chiacchiere locali, ti puoi fare qualcosa e niente, senza mettere antennoni, fare, tanto poi sono solo problemi di sguidi tra condomini, si ti negaggi l'antenna in antache macchina, tanto a Burube, si caggi in antache passona, so, fare due. Quindi secondo me delle antenne filari è l'unico modo per fare le cose all'oscuro di tutto. Sì, certo che se mi cade l'antenna e fa danno, è ovvio che sono problemi miei, questo non lo nego. Però, caspita, se io decido di piazzare un'antenna, perché io ho questo hobby, mi piace questa antenna qua, me la piazzo, e poi vedi tu che mi dici che non la posso piazzare. Non vedo giusto che tu a me non me la fai piazzare. Tu a me me la devi far piazzare. Poi, se ci sono problemi, i problemi sono miei, non sono tuoi. Cioè, vabbè, se così è, perché io ho visto a Sassari, ho visto antenne in palazzo di condominio, ho visto direttive addirittura piazzate, saranno radioamatori, tu mi vai a dire, ma io sono radioamatori, lo faccio una maragana, no, anche noi lo possiamo fare così. Tu hai diritto di installazione dell'antenna, tutti, poi il, diciamo che ha diciamo che ha dato l'esame di Stato, che ha la patente, ha proprio un diritto, lo fa e non glielo puoi impedire, però il tuo vivere è quello che regna, mi segui, quindi uno si organizza con quello che può. Si organizza con quello che può, Fra. Ma quelle sono persone ignoranti, sono persone che non capiscono niente, sono infelici. E tanti vinne che vorrebbero montarla, che vorrebbero fare, gente che se le piazza nei terrazzini piuttosto di farsi le quattro chiacchiere. Non tutti hanno la fortuna di avere il tetto a disposizione a conto loro e basta e poter montare quello che vogliono. E vabbè, Fra. Se vuoi la puoi montare, se uno vuole la può montare, ma io sono convinto che anche il vicinato, se vuole, ti può fare problemi, anche il vicinato, perché io dovendo andare a abitare in città e dovendomi piazzare un'antenna, cioè, ti ripeto, un impianto come quello che ho io, che non è grandissimo, però è molto vistoso, anche il vicinato ti può dire, capita, cos'è che cosa? Se mi dica girata alla facciata, se ti cade sulla facciata, io assicuro tutto l'impianto, assicuro queste cose e ti paga tutta l'assicurazione. Però sono molto ignoranti. Vabbè, li ho già avuti io quei problemi di vicinato, però dopo l'ho avuto per un po', poi alla fine quelli hanno capito che non potevano farci niente, allora, perché io l'antenna, quando loro mi hanno mandato i carabinieri a me, che io non c'ero neanche, tu pensa, guarda, sta parlando del 90, e c'erano i mondiali del 90, e io ero a Torino, il giorno ero a Torino, ero, del giorno dei mondiali, non si vedeva la televisione ed ero io, l'antenna mia era che ti stava disturbando, ma se uno visogo, il radio si è sudato e tutto è sudato, l'antenna cosa ti può fare? E quindi ti avevano chiamato i carabinieri? Sì, sono venuti qua, non mi hanno trovato, sono andati alla mia suocera, gli ha detto, dice, cioè non ci sono, sono a Torino, come sta disturbando non so cosa, e lei mi sta dicendo che sono a Torino, sì sono a Torino, sono andati su. E allora mi ha detto, dice, gli dica quando viene di venire in caserma. E lui si è giovato. Sono andato a dire allo divisino, mi aveva denunziato. Proprio la denuncia te l'aveva fatto. E allora? E se no loro non si muovono, se non fai la denuncia. Io l'ho denunciato. L'ho denunciato dicendo che io disturbavo i televisori, che non si poteva vedere più niente. E là. Io sono andato in caserma, quando sono arrivato, e mi fa, dice, ah, lei è il signor Fulzi Francesco, dice, lei ha la ricetta, una ricetrasmittente, beh, veramente ne ho due o tre, ne ho, non una. Dice, sì, ma lei non sa che sta disturbando, e a chi? E vabbè, dice, sta disturbando. Ci hanno chiamato così così. Ce l'ha la licenza. Ho detto sì, se mi fa uscire un attimino a macchina la prendo. Sono andato, andando su Codurrado a Trento, a Nero Marisciallo, vedo la licenza mia è andata alla scrivania suia, la coppia di Fabiani Etici. E la ci ha detto, ma quella non è, sì. Dice, però volevo sapere da lì se. Però, dice, lo so che lì è in regola al 100%. Purtroppo quelli lì, solo a vedere l'antenna, stanno dicendo che lì disturba. Beh, se sono per questo, non me ne frega niente. Allora, chiami a chi dovete chiamare. Dice, no, non c'è bisogno. Arrivederci, signor Fulzi, mi ha detto. E mi sono andato. Quando l'indomani ha giocato una giovanata dell'antenna, ma no a chi ne ha giovanata che me l'ha detto, mi ha detto che il suo benero. Me l'ha giovanata a chi vuole aggiungere un paio in più a Sassira. E l'ho fatta, l'ho messa più in alto. Oh cavolo! Ehi casino! Oh, le cos'è? Ma le è andata a me? Ma infatti bisogna fare così. Ma poi te l'avevano tolta la querela. È stata decaduta così, da. Me l'ha detto il carabiniere, me l'hanno detto. Dice, ma questa denuncia, no, questa è una piccola denuncia che hanno fatto così loro, però decade subito. È una segnalazione, dai. È una segnalazione. Ma pacari, dai. E aveva il coraggio di guardarti in faccia anche questo qua. No, lui non mi parlava più. La moglie sì, ma lui non mi parlava più. Codardo. Imbrumato dalla moglie magari. Ah, boh, non so come te cavolo era, però io ero tranquillo. E ha detto, Da voi in carriera la candola hanno detto, ma hanno detto sì. Allora quando non ci parla dell'antenna, ma hanno detto di sì, mica ne farà da l'antenna Edo, no? Ne ha bucata l'antenna a tanto i carabinieri a ridimi. Ha detto, tanto gli ha seduto. Gli ha così e l'altro dice, se ne ha cavata vuol dire che il carabinieri ha detto. E io gli ho detto, se ne ha giocavata, ne ha giocavata per farmi la manutenzione. A esita fra poco ci fa una sobbaro di più in alto. Esatto, allora tu dici no, nella giocavata che devo già baru baru, devo pulire altre due antenne e devo pulire un baru più grosso e più alto, se no non ti posso disturbare, non ti posso disturbare bene. E allora è il periodo che si modulava forte, tranquilli, la ricezione, la trasmissione era tutta diversa da adesso, era. Poi era il periodo che c'era Pietro, povero braccio di ferro, che aspetta, erano Cristal di Alghero, e Alghero arrivi come ti arrivò a Sassariucci. Sì. Ma vorrei vedere, vedrai che noi per parlare con qualcuno di Sassari dovremmo mettere, ci vorranno almeno 500 watt fra 10 anni, se sarà. Vabbè, ogni giorno sta sporcando di più. Sì, ogni giorno è sempre più sporca. Ogni giorno è sempre più sporca, ci sono giorni che non l'accendo, cioè l'accendo, guardo com'è e spengo. Che ho uno schifo, ma è anche questa zona, Mifra. È anche questa zona che è uno schifo, che non... cioè, uno può avere un QRM a nubi. Ma stai scherzando? Io stasera stavo ascoltando, non sono entrato perché non stavo facendo cosa. Nel 10 stavo ascoltando, ogni tanto mi soprammodulava Sassari, a Sassari lo soprammodulava, questo cazzo un casino. Sì, perché poi se metti il filtro, io per esempio ho questo rumore di alternata a 9, 10 a volte, no? Se metto il filtro mi scende il QRM a 3, proprio QRM e QRM, non ce n'è, capito fra? Non è QRM, sono rumori ambientali e creati chissà da cosa che abbiamo noi vicino qua. E beh, se lo fa a me lo fa a te, quindi la cosa è in zona. Attino a volte si sente di là queste scariche, tum, trum, trum, li fa da 3 a 9, da 4 a 9, e sono proprio rumori atmosferici, mi segui? Perché poi se io metto il filtro mi scende il QRM a 3, a 2, mannaggia, non ne ho. Vedi, stasera è un po' pulita. Sì, stasera sì. Ma io te l'avevo già detto, ho due antenne qua, non so cosa sono, non penso che siano Vodafone, ma chissà cosa cavolo so, va bene. Poi ce n'è una più giù della 5G, io penso che siano quelle lì. Anch'io penso che sia proprio quella. Questa del 5G diceva non faceva niente, non succedeva nulla, invece mi pare che sono che fende un bel di guai, chissà cosa. Comunque, bisogna vedere cosa può comportare, cosa comporta questa cosa qua del 5G. Comunque, ma anche in banda c'ho casino, Sì, da tutte le parti, c'è poco da fare, cioè. Vabbè, pazienza, vuol dire quando non riusciamo a modulare più in qualche tempo. E se ne facciamo dai. spaccare, dai. Ma non ti sei accorto che anche a volte faccio dall'ascolto in 40 metri, 80 metri, cioè c'è il rumore, perché QRM non ce n'è, ma c'è il rumore strano di alternata, il rumore anche lì la propagazione a volte sparisce, anche loro lo dicono, lo dicono anche loro. Sì, ma stasera, allora, stasera ero con la filare, io con la filare ascolto molto meglio dell'antenna della Mantova, ascolto. Tutto a un colpo, stavo ascoltando benissimo, tutto a un colpo si sono abbassati i segnali, sono abbassati, e sentivo altri tipi di rumori, sentivo. Poi mi rialzava e tornava tutta la modulazione normale. Alla fine ha detto, ma va a far Napoli, la giubbia si è circolato. Sì. Non ho capito cosa sta succedendo. Sono queste scie chimiche, queste cose, questa cosa che sto bollendo in l'aria. Si ricordare a te, ma chi si guai? No, non succede nulla. A quelli non succede niente. Sta attento. Non farlo. E quelli c'hanno il boomerang. Infatti, paghi se torna sempre da rito. Allora lascia perdere, non farlo quello. Tanto quella gente sarà felice, ma non assai, dai. No, non molto. Se si trovano uccelli a terra che non riescono a volare in campagna. Storditi. Magari due, tre. Marini sembrano spesati, non volano. È quello lì, capito? Anche. Che ti fa pensare che c'è sporcizia nell'aria. Non è più come prima, no. Sicuramente quelli hanno fatto il vaccino, stai attento. Ma secondo alcuni invece sono provati anche da questi, da queste cose veramente mono dell'aria, da queste cose che mollano, perché quelle scie che mollano è micro alluminio, roba del genere. E gli animali, soprattutto i volatili, risentono. Infatti. Aspetta qualche minuto che vado a prendere le pastiglie giù, che mi sono dimenticato. Anche io, te lo stavo per dire che anche devo fare roba di di roba di un genere, dai, entro subito. Via. Ok, eccoci qua. Sei entrato? Fatto. Sì. Sei entrato burro, un minore, no, un meglio. Vieni, mettiti a cuccia qua, vieni. E va bene. Ma ho sentito un beep di Pomponio. Boh, non lo so, non c'era. E in sottofondo l'ho sentito perché ho tutto attenuato, capito? Sicuramente lui era in AM. Non lo so. Io dalla M con questo non riesco a capirlo anche. No, io sono tutto di qua, ho l'attenuato inserito e lo squelce. Però va bene perché. Andare. No, mi stavo guardando. Corso, no, già è giusto. Sembrava che aveva un pulsante schiacciato, invece no. No. Uia, vabbè, allora fuori aveva freco, non se ne comprende nulla, c'è uno sbalzo termico da giorno alla notte, assurdo. Il problema è che dentro si sta bene, si sta molto bene, non c'è stesso ma che tuffo. Ehi, a voglia, esetta tra un poco quanto ti sai, mi bongo, mi goco. Sono arrivati, purtroppo. No, la sera tardi, dopo pranzo lo accendevamo sempre, perché dopo cena volevo dire, dopo cena perché c'era più fresco dentro. Ma adesso, oggi si sta bene. No, già si sta bene, dentro si sta bene. Dentro non è un problema, però fuori c'è freschino, fuori soprattutto in hog, in campagna, c'è sempre freschino. Tutti i giorni mi spolvero queste radio, tutti i giorni fra. E tutti lì ribasso sempre il rubinzello a chi va appena di più, varo sempre. Porca miseria, adesso domani mattina le smonto di nuovo e pulisco di nuovo sotto. Ma vai dalla scena. Lei si è pulita stamattina, oggi. E quando è entrato Tino, che mi ha sentito che stavo provando la radio, avevo tutto smontato, tutto, e ho rigirato tutto da una parte all'altra. Sì. Sto pensando di farli dei rialzi di 2-3 centimetri, intanto di entrargli lo straccio sotto qua, perché è una cosa allucinante, una cosa di chi, cioè vita netto gnadì, però non voglio che tocchi il radio, ma a netta dugna di non lo so. Oh, mamma mia, si poteva ficcare il... Dio mio, che quando sto parlando c'ho pennellino e sto sempre così, però davanti, ma poi il resto cosa, a cercare sempre dugna di così, e una, due, tre giorni, poi una pennellata e via, già esci nei puliti. E anche io mi sono a pennellino in mano, quei pennellini, cioè quei pennelli, diciamo che si, per i trucchi delle donne, quelli a setola sottilissima, pare sembrano cappelli, soprattutto che sembrano cappelli, e gli passo quello, glielo passo quando sono qua in radio davanti, glielo passo sempre, sono sempre bassente. Adesso c'ho il 737, a volte lo sto accendendo e ci devono essere due lampadine che stanno dando problema. Devo aprire la carcassa e vedere se riesco a cambiargliele. Ma lì ce n'è una sola lampadina, non due. Ma dove? Tu hai detto 747. No, nel 737, nell'ICOM, nell'HF. A volte prendo, lo accendo e mi manca la lampadina di una parte e poi si riprende. Devo vedere se riesco a cambiargliela. Se ne sta andando, se ne sta. È come ha fatto lo smitter della mia del coso, del Galax, il mio. Piano piano, da lui se n'è andata. Infatti gliel'ho messa nuove, gliel'ho messa. No, gli dai un tocchettino e si riprende. Secondo me c'è qualche falso contatto. No, sono le lampadine che stanno esaurendo, secondo me. Perché io ho notato che non ce n'era falso contatto, erano saldati bene, fatti bene, e che falso contatto non ce n'era. Erano loro che quando scaldavano più di tot, allora andavano a mancare. Questo qua me lo fa a freddo, ma appena l'accendo, dopo un paio di secondi si riprende. Ed è lampadina, perché si vede che è proprio lampadina. Ma invece di piglio e basta che io me la mangiano, mi posso visto. Però mi devo fare anche fuori, devo fare di nuovo l'erba. Oh, io. mai possibile. Come ti ha detto Ghetto, hai voluto la bicicletta, abita a Lecce. Che aspetta, appena avremo la bicicletta te ne l'avremmo. Fra me è bello che anche un costo, perché se oggi per fare tutto questo pezzo di terreno ci vogliono una trentina di benzina, più il filo, più l'olio, più il china e più gli assemi, più tutto, devi mettere in conto tutto. Vabbè, tu quelle cose non le puoi mettere in conto, perché è roba tua, non è degli altri, e devi... e devi tenerla conto una volta averla assunta. Ma d'inverno non è un problema, perché d'inverno prendi e lo lasci anche un pochino alta, però d'estate, quando d'estate, ma più che altro per la gramigna, per gli anni, per i cani, devi farlo sempre. Quindi bisogna, facciamo un coso, anche uno che fa il cemento, e forse tutto a cemento, un piazzale mano. Se te l'ha già detto, perché quando io ho fatto a cemento, purtroppo l'erba d'estate vuole tagliata a maragana, perché c'è gli animali, c'è vecchie, c'è di tutto, papatacci, vedi tutto in questa campagna, e bisogna eliminarsi. No, infatti io la tengo pulita, per... no, vabbè, io la tengo d'estate, l'altra volta quando sei venuto ho visto che era un giardino. Sì, ma così si tiene una campagna, purtroppo è così, però se uno non va poco tempo, aveva fatto chi da manina. Una, non una maggiore, ma una minima parte l'avrei fatta anche a cemento. Sì. Hai almeno il pezzo davanti alla casa, questo va fatto. Questo va fatto. E non ci vogliono almeno, per farlo, non ci vogliono almeno quei 4-5 mila euro. E se di più? E da dove stai arrivando tu? Dalla Luna. Dall'Africa. Beh, Antonello, buonasera. Allora, Geri, tu poco fa. Gavino a questa parte, compagnia di Franco. Avanti, Fra. Ehi, ciao Antonello, ben ascoltato. Caspita. Questo bip inconfondibile, avanti a te. Ehi, ciao, salutoni a tutti e due, ben ascoltati. Arrivate bene qua tutti e due, entrambi, non c'è nessun problema. Stavo provando a preoccupare lì, su questa 2009, solo che le femmine ha dei problemi, bisogna che me lo sistemo. Appena c'ho 2 minuti di tempo. Già sei in pensione adesso, già puoi anche averli 2 minuti. Lascia perdere, che sono andato a cercare il pezzo della GBC e la Fusano non c'è più niente, nessuno, né a Alghero né a Sassari, capito? Mi sono trovato inculato a dover riparare 2 apparecchi e non c'ho pezzi, hai capito? In pratica sono in mezzo alla merda a un certo punto, perché senza pezzi come fai a riparare gli apparecchi, me lo spieghi? Non le fanno arrivare per niente, siamo arrivati a come era la Corsica negli anni 70, che venivano qua, si facevano il viaggio in Corsica, venire qui a GBC a comprarsi i componenti, a sistemarsi gli apparecchi. Noi siamo la stessa identica cosa adesso, a meno che non li troviamo da qualche ditta strana. Adesso vediamo un po'. Perché Antonio, ad Alghero non hai trovato niente? Ho telefonato ad Alghero, componenti non ne vendono più, mi ha detto, dice. Come Sassari, siamo uguali anche ad Alghero, mi ha detto. Non c'è commercio, quindi pezzi per baracchini non ne vendiamo, mi ha detto. Mi ha risposto così, dice, scusa, mi dice, non ci posso fare niente, dice, se no, dice, te l'avrei dati, se sei venuto ad Alghero, te l'avrei immediatamente dati. hai capito? Non c'è un integrato audio, non c'è un integrato, non ci sono cose, non c'è proprio niente, nulla, hai capito? Quindi a un certo punto mi tocca, non lo so, adesso vediamo un po', recuperare da internet qualche sito che vende componenti e fammeli mandare direttamente a Sassari. 5, se pensa alla volta, cosa ne so io? Me zaccherò in culo, però a un certo punto cosa vuoi fare? Niente ne puoi fare, io pensavo che quello di Alghero avesse qualcosa ancora. E vabbè, vuol dire che non c'hanno più niente, dai. È un casino, proprio per la Sardegna è un casino nero, per queste cose qua. Vabbè, c'hanno anche, non hanno tutti i turti, non c'è la vendita, non c'è niente, ed è quello. Allora ti capi? No, Antonio, non tengono più niente in loco, non tengono più niente. Bisogna ordinare tutto. Oioia. Che poi la GBC di Sassari non ci credo che non c'ha nulla, chi vè un casino in chi vedrento, io non ho capito come fa a stare lì dentro. Allora, se lui quel negozio lo svuota, stai ascoltando, se lui quel negozio lo svuota, riempie tre locali uguali a quello, d'attrezzatura. Chissà la roba che ha, sia lì che in magazzino quello lì. Pacari dai, è un disordine infinito. Guarda, sono andato l'altro giorno, lui ci è passato sopra con le scarpe, nei componenti dei 12, nel balcone dietro dall'altra parte, appena entri. Tu figurati, poi sopra il balcone di frontale era tutto pieno di, non so cosa che diavolo c'era, tutto scatoloni aperti. Io mi sono messo le mani in testa, ho detto Tony, allora sì, io sono solo qua, c'era due lampioni apposta, aveva due, c'ha gli occhiali grossi come il coso, sembrano due boccioli di vino, sembrano, cazzo, boh. È disordinato, è il bello che non prende nessuno e gli dice ragazzi datemi una mano a sistemare questo negozio, soldi non ne ho, quello che vi serve vi prendete, capito? Uno lo poteva anche fare, ma trovava con cosa ne so, qualche radio, qualche portatile, qualcosa, perché qualche antenna, perché sono convinto che lì dentro c'è di tutto, mio Antonè, guarda, lui lì dentro ha roba veramente interessante. Se lui avrebbe detto sto cercando due persone che mi diano una mano a sistemare il negozio, io la verità sarei andato di sabato e di domenica, sarei andato dalle 8 del mattino fino a finire, mi sarei messo lì e avrei selezionato tutta la roba, gli avrei dato la mano, non avrei voluto niente. Mi avrebbe detto quello che ti serve, pigliati, quello che ti serve un'antenna, una cosa, se è andato e mi avrei preso in conto a materiale. Ma non si può più entrare anche lì dentro, è uno schifo, lì dentro sembra che sia scoppiata una bomba, neanche un terremoto fa quel danno. Già lo so, non dirlo a me, sono entrato dentro, mi sono messo una in testa l'altro giorno. Infatti, stavo per dirglielo ma non ho detto niente, hai capito? Ma poi si sarebbe offeso, quindi non aveva giurito nulla. Se no anch'io ero, se era andato gratis a sistemargli tutto qua. Proprio per essere a diventare un bel negozio, l'aveva lavato in terra, che è anni che non lava in terra, tutto quanto nero, eccetera, eccetera, capito? Tutti quei componenti buttati in terra, che non servono a niente, quanti possibili, li aveva imbustati, ma come si faceva con i cinesi, li aveva imbustati, poi mano a mano me l'avevi al limite portati a casa, sistemati e cose del genere, me l'avevi venduti. Ma non si può, non ci può passare sopra, cazzo, sopra le cose così. Io ho visto passare sopra con le scarpe l'altro giorno, cra, tutta roba che magari lui buttava in terra come difettosa, eccetera, si passa sopra come se fosse mondezza. Perché quel negozio sarebbe bello prenderlo in gestione, uno che sa quello che, cioè uno del settore deve prendere, investire, quanto lo vuoi in gestione? 1000 euro al mese, 2000 euro al mese, dammi, e prendi e lo metti a posto. Quello è un modo per crearsi anche un lavoro, una persona, perché quel negozio lì vedrai che lui verrà a mancare, perché è mezzo, anche mezzo sembra mezzo pazzo, e crearsi un lavoro, Antone, perché è così, un appassionato lo può fare. Glielo dice uno, che gli interessa, glielo dice, qua io lo metto a posto, così ti pago la gestione e te ne vai via. Sì, quello sì, ma per il momento non vale neanche la pena fare una cosa del genere, capito? Cosa vuoi pigliare in gestione, per carità, cazzo, poi io devo stare chiuso almeno minimo 6-7 mesi per sistemare tutto bene, metterci tutto come si deve, catalogato, eccetera eccetera, mettere gli scaffali, dove ha messo la roba, cioè dove metti la roba, poi prendi e apri, non è che puoi aprire così, cazzo, ma stai scherzando, oh. Dove sono i cassetti dei componenti, far arrivare, eccetera eccetera, la roba per dire componenti Midland, per la parte Midland, transistor, condensatori, media frequenza, eccetera eccetera, tutto aver fatto al limite, non essendo dove adesso lui, aver preso un locale molto più grande, aver fatto un laboratorio, aver preso un tecnico, tu fammi solamente le riparazioni degli apparati, basta, come lavoravo io quando lavoravo in Via Umberto, che facevo le riparazioni. Una volta fatte le riparazioni, prendevo, se ti volevo, tutti gli apparati, compravo i componenti, eccetera eccetera, e una volta che gli apparati erano a posto, prendevo, restituivo, mi facevo dare i soldi, come si deve naturalmente, e invece lui è fatto così adesso, no, io non so, ci sono rimasto, guarda, quando sono entrato ci sono rimasto veramente male, casa. Mi sembrava di entrare, non in un negozio, mi sembrava di essere a Calancoi, la verità. Faceva prima andare a Calancoi, chiudere tutto, e la parte tutto me. Io non so, fra, tu da quant'è che non vedi la GBC? Sarà 4-5 mesi. Infatti quando sono andato sono tornato indietro a vedere se era la GBC, a guardare l'insegna fuori, e lui mi ha detto, dice cosa sta guardando? No, penso era la GBC, sì, è la GBC. Ma non me l'ha già detto, ma guarda, mi ha giocato con prendere, giusto, un tiraggio. Beh, ma tu vuoi dire, non ci sei qualcosa di interessante? Lì c'è tanta roba interessante. Allora, una persona, se tu vai a cercare, per dire, una lampadina, sai dove hai messo la lampadina? Sai dove le hai messe? Quelle da strumenti, quelli da 2,20, quelle da 12, quelle da 6, quelle lo sai perché sono tutti numerati. Lui ha aperto 200 cassetti. No, ma è una roba di interessante ammucchiata da anni. Siccome lì dentro anche lui ha qualche mantova nuova mai aperta, qualche antenna seria, antenne VEU, cioè lui di linea ha tante, no, magari non tantissime, però qualche pezzo ce l'ha lui di lì interessante, ma non solo di quanto riguarda le radio, di componenti elettronici che non sa neanche lui dove pagare, dai. Di lì bisogna fare, lui quel negozio deve dare ai cinesi, quel negozio deve prendere e deve darlo ai cinesi. Adesso non so se, ma le mura le sue sono? Oh, non lo so se sono le sue, penso che sia in affitto a chi, a me, ok, lo sono reso lui, per quello che lui ci, c'è ancora, perché riesce a ammortizzare con l'affitto. Però lo penso, non lo so. Secondo me lì c'ha baracchini anche c'ha dentro, perché io una volta sono andato a comprarmi il Midler là da 48, sono andato a comprarmi e ce l'aveva lui, mi ha sparato 270 euro e la gita mi ha assiru acchietando in internet che costava 180-190 euro. Ma il 48 nuovo? Esatto. Sì. Ma lui, non lo so cosa... cosa li gira, cosa c'ha, vabbè, ha avuto anche problemi. Ma io però la domanda che vi faccio è questa: ma GBC come diciamo come fonte, come primo proprietario di quella dell'attrezzato, quando mai deve sponsorizzare, cioè quando mai non ci va un rappresentante e vede com'è il locale? Perché alla fine una casa costruttrice di componenti ti dice sì, tu hai il marchio GBC, però devi tenere anche un certo decoro, perché se tu vai alla GBC di Alghero è tutto profumato, pulito e ben sistemato. Se andi a Sassari, in chi vi si entra il cavatore, ma anche il cavatore ve la fate per questa roba. Andiamo noi, io due a Antonello e riusciamo noi in una via, vedi che avremo un becco. Se entro che mi dentro, come sta a carregare quello camion manno ando quello dele quello camion manno carregaggio tutto che mi dentro le cotto non la va dentro, come sta a si chiama in una di forza tutto. Oh Gavri, ci basta solo il dele, quando noi abbiamo 8 ore di tempo, in 8 ore e ne fermo del roba. Io voglio. Io Antonio proponiglielo, dice ascolta, c'ho due amici che vogliono venire a darti una mano a sistemare il negozio, soldi non ne vogliono, se ci serve, se c'è qualcosa che ci interessa ce la prendiamo. Vai, per carità, cazzo, guarda che quel negozio lì in pratica lavorava con padre Marzia, lo sai, sì, di Fusaro, insieme a marito, perché lui già lo sai ha problemi da quando lui ha avuto pericolo, che è morta la moglie, anche lui non sta bene, è messo male, e quindi gli ho detto un giorno, guarda che Tonino ha detto messo male, ha detto se vedi che condizioni quel negozio, ha detto ti metti le mani in testa, dice guarda, dice quando sarà l'ora, come si chiama, mi ha detto, dice vado lì e mi porto via, mi compro il negozio, quello che c'è lo sistemo bene, mi ha detto, e faccio un negozio grande, mi ha detto Marzia, figurati tu. A me lo dici, cazzo, quando entri lì di Fusaro c'è tutto messo bene, addirittura c'è un, dove c'è, sotto i negozi c'è un garage, cazzo, ci sta tutto la GBC dentro, ci sta, cazzo. Sì. Ciao Tio. Loro vogliono prendere e fare sì, una rivendita grossa, fanno bene. E infatti vuole fare così Marzia insieme al marito, hai capito? Marito se lo sai che è la sua pensione in prima, perché lavorava lì alla team e si è uscito per quel motivo lì, per stare con Marzia e con la madre di Marzia. Poi vabbè, prima di esserci lui c'è la signora Giovanna, che poi è morta, poi prima di la signora Giovanna è morto il signor Vittorio a un certo punto, quindi immaginate tu. Però sotto lì io ci sono stato, adesso Antonello è in pensione, lo sai, quando lavorava la Fusaro, tu più mangiato, io l'ho visto giù, dove c'era il laboratorio di piantatore che faceva antenne, cosa, questi valuivi. È largo, c'è stata tutta la GBC che è sotto. Ha fatto che prende la roba da qui, scende, ce la giù, metterci gli scaffali, assumere per dire due persone, prende i componenti e sale sopra, non ci vuole molto. Oh Antone, ma ciao Tino, buonasera, adesso ti rilancio. Ma Antonello non sta più lavorando quindi di lì? No, non sono in pensione ormai, da un anno e mezzo. Ecco, allora è per quello che non l'ho più visto. E vabbè. Avanti Tino, con la buonasera, sono dalle 8:30 che ti aspetto, Sì, lo so, scusate, però effettivamente ho avuto un incontro ravvicinato col bar vecchio. Come sta andando questa radio? Molto rilassante. Sì, vabbè, sono con l'HR525. Va bene Tino. Ok, aspetta che arresto il sistema, perché sennò inizio a entrare nel computer e va male. Come segnale, come siamo? Fondo scala tutto attenuato. Ui. Quindi va bene così. Avanti Fra. E io non gli dico niente, perché no, sono uscito da fuori a cercare lo smetto. Franco, buonasera anche a lei. Mezzo watt modulati, ciao Antonello, anche a te. Non so se c'è, a parte Calvino, non so se c'è qualche un altro, Ciao Tino, non avete 35 qua a questo smitter di questo apparecchio qua. 9:35. Sì, 9:35, in FM. Vai, fate aggiustare lo smitter, vai. Ecco, sto dicendo, cazzo. Tu fai la domanda a quello là, cazzo, te l'ho dato l'altra volta. Vai, fate giusto lo smitter, vai. Ma un tecnico bravo, lo conosci? Santa, ecco, sai che il nome 35 a Sassari? Cazzo, tecnico bravo, te l'ho detto l'altra volta, cazzo, bro. Sì. Ah, ok. Allora devi dire, il mio smitter se n'è andato in una fangalla. Te l'ho anche detto l'altra volta. Cerca quella persona lì in modo che mi faccia la caratura giusta di tutto quanto, poi del resto non me ne frega niente. L'apparecchio comunque funziona bene adesso, il problema è solo la caratura, basta. Smitter e RFG per esattezza. Quando ti arrivo io, Antone? Prova. 9:20. E io come ti arrivo a te? Minimo 8-9. No, tu sei 9:30, più alto di lui. Oh, capita. Piglia la mica, vi. Fra, è perché sei più in alto tu di me. Tu sei più in alto di me. Io sto uscendo con 10 watt adesso. Guarda se cambia adesso, Antone. Aspetta. Sei pronta? Ora se cambia. Ha cambiato qualcosa? E in maniera. 9:30. Cazzo. 9:30 tondo. E in maniera che ciambada. È cambiato ti? Oh, aggiungi un raggio camminendo. Fate fare la bravo. Che non ne ho voglia di stare con questi giochi, io uscite lì come sto uscendo io. Aspettate un attimo, adesso avete calpestato la coda al cane, eh? Avete calpestato la coda. Guardami bene lo smitter, Antonè. Ma bene bene, però guardalo, perché mi sembri che non sia attento. Aspetta. Oltre non va, vedi un pochino. Non c'è bisogno di fischi in FM, cati. Sono una cosa io invece. Sì che c'è bisogno, perché qua va anche oltre. E te su un cane a Bagenda. Com'era Antonè? Com'era? Fammi capire, com'era? da 5 a 6, quasi 40 addirittura. No, aspetta, aspetta, quasi 40 non mi piace, aspetta un attimino. Guarda adesso, non so, devo accordare, aspetta, beh, Adesso ci sono arrivato a 40, guarda bene. No, non ci sei arrivato a 40. Se vuoi ti faccio la fotografia su WhatsApp e te la mando. Allora ti devo fare aggiustare lo smitter. Aspetta che abbasso, non mi interessa, dai. Già va bene così. Oh, capì, uno tondo tondo, eh. Sì. Ho io la toppa appena di motore.